9, un ben trovato e ben trovati a tutti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e sulle ore, sull'ora di teologia estrema delle ore di religione ogni venerdì a quest'ora. Allora, abbiamo in realtà una notizia di cronaca, sapete stiamo utilizzando, sì è cronaca, dai, poi vediamo quanto possiamo andare in là, però diciamo, sapete stiamo utilizzando queste, abbiamo utilizzato alcune, parecchie delle ultime puntate per raccontare i rapporti fra politica, religione, Vaticano, governo, che continuano anche in questo caso, perché? Perché c'è una notizia del giorno, stamane l'abbiamo letta anche chi ha sentito la rassegna stampa, su diversi quotidiani, perché è stata ritenuta piuttosto rilevante, le affermazioni del pontefice emerito Benedetto XVI sulla pedofilia. È intervenuto, o almeno diciamo ha messo la sua firma su un intervento piuttosto pesante, perché è un intervento che ammette questo problemino, però dice sostanzialmente che è tutta colpa della teologia libertina che è scaturita fuori dal 1968 e quindi lì bisogna andare a trovare le cause. Prima evidentemente non c'era. Ora la cosa che ti chiedo subito è se un'affermazione del genere non possa risultare un po' troppo ingenua per un personaggio comunque di raffinata cultura come Ratzinger, nel senso che tutti, la prima cosa che hanno pensato tutti è stata prima del 68 e la seconda cosa è stata sì, non se ne parlava, poi a un certo punto se ne è iniziato a parlare con molta calma eccetera, però perché questa presa di posizione, perché adesso e perché lui? Tanti motivi. Primo motivo, che è quello direi diciamo antropologico, ma nel senso dell'uomo puro proprio, quindi direi in parte con anche un cotè clinico del 92enne. Sì, insomma, non è Ratzinger, sì, che direi che non so, stanco è un eufemismo, ma mentalmente, ecco. Allora, e che vuol dire questo? Vuol dire che appunto è una persona molto molto anziana, relegata comunque in una così un appartamento nel Vaticano, dove sostanzialmente si muove per passeggiate interne, ma non si muove più, ecco, insomma. Quindi legge le cose che vuole, penso una letteratura molto selezionata, certo, per la sua biblioteca, e anche con una certa lentezza, perché comunque la produzione intellettuale è comunque rallentata. E questo è il primo dato, cioè che ci troviamo di fronte a una lettura di una situazione molto molto complessa, molto semplificata, e che deriva sempre dall'uomo, ma molto più giovane, come se fosse come con una ripresa, diciamo, dello snodo della sua esperienza prima di essere poi ordinato cardinale e poi di diventare il ghostwriter di Wojtyla nella metà degli anni 80, 83-84 sostanzialmente, quando comincia, diciamo, a pubblicare praticamente a fare gli questo interventi lavoro della Congregazione della Dottrina della Fede, cioè Inquisizione o ex Sant'Uffizio, tre nomi nel però, tempo, ma è lo stesso oggetto. Quando è, però prima appunto che era comunque già un teologo di importante rilievo nell'ambito proprio del cattolicesimo del dopoguerra, perché lui nel Concilio Vaticano II, abbiamo detto, partecipò da sinistra come giovane teologo insieme a Kung sulle stesse posizioni di apertura al dibattito, diciamo, ecco, molto semplicemente. Ma dopo la chiusura del Concilio, che ricordiamolo avviene nel 65, anzi proprio in questi giorni, perché ricorreva un mese fa, se non ricordo male, proprio la celebrazione della prima messa non più in latino, non più in latino, certo, che è sì, subito anche entrata in vigore con la chiusura del Concilio, perché una delle grandi riforme del Concilio, diciamo così, è la messa in volgare, esatto, del latino, e quindi della lingua lingue popolari, diciamo, e quindi da noi in italiano, ma appunto in Francia in francese e in Germania in tedesco e così via, perché sennò era tutto uguale, quindi voi andavate nel 1960 in una chiesa d'Europa, era uguale. Adesso più universale di così non si poteva. Esatto, era veramente sì, universale sempre, però nella certo dimensione di un universalismo di delitto. Esatto. E quindi ad ogni modo, quindi lui vi partecipa, come dicevo, con una posizione di apertura. Era ritenuto del gruppo dei cosiddetti progressisti, diciamo. Ma appunto, dicevo, proprio dopo la chiusura si ritrova a vivere nel giro di pochissimi anni, perché siamo appunto nel 65, tutto quel precipizio di sconvolgimenti che comincia proprio in quel periodo, anche se le radici sono negli anni 50, però in generale, certo. Parlo dei giovani e della condizione sociale, culturale e poi politica dei giovani, perché il 68 è stato un movimento culturale, usiamo più, non solo politico, ma proprio di anzi, soprattutto culturale, perché con una lunga gestazione. Prego? Con una lunga gestazione dietro. Una lunga gestazione dietro, ma per loro poi la morale, appunto, adesso ci arriviamo. Che però appunto ha toccato, ripeto, le nuove generazioni, sostanzialmente i nati tra o durante la guerra, quindi non hanno ricordi perché appunto erano nati nel 40-41 o proprio alla fine. Cioè quelli che nel 66, 67, 68 avevano 20, 21, 22 anni. Questi sono stati gli artefici, e con anche qualcuno più grandicello, ma insomma in ogni caso il grosso proprio della generazione demografica è quella lì, che sono poi i baby boomer in parte, no? Che quelli in particolare sono 45-64 come generazione, ma quindi con qualcosa di più indietro, ma è più o meno questa generazione. Ripeto, una generazione che non ha conosciuto direttamente il nazifascismo, tanto per parlare anche della Germania. Però per ricordo familiare immediato, per ricordo familiare, sì. Diretto sì, perché tutti quanti, genitori, zive, ma fratelli maggiori. Ah, certo. Sicuramente sì, e però ha conosciuto da bambina oppure proprio inizio adolescenza la ricostruzione in Europa, specie in Germania e in Italia, che erano abbastanza devastate. Sì. E c'è cresciuta, quindi respirando un dibattito culturale che comunque era di conflitto tra genitori e figli in qualche modo, perché si stavano trasformando i costumi e che la tenuta, diciamo, morale appunto ha fatto un po' acqua da tutte le parti, perché la società era certamente in cambiamento, perché poi il benessere stesso apre una serie di opportunità, specialmente ai giovani, insomma, l'università per tanti, così. E quindi nel 68 lui invece ritratta sostanzialmente tutto e inizia a scrivere contro quello che sta succedendo. Contro il rivolgimento. Esattamente, perché si respirava aria di divorzio, di liberazione sessuale, che è stato un fenomeno. E anche dentro la Chiesa comunque c'era sì, io vorrei fare una parentesi relativamente, come dire, a margine, perché in realtà è abbastanza significativa, che riguarda l'Italia. Molti di noi la conoscono la vicenda, ma molti forse no, specialmente forse i più giovani, benché sia ben nota. Non è lo spartiacque definitivo, ma è un punto di partenza della storia del contemporanea italiana, cioè il 66, quando Alparini, c'è un la gruppo zanzara. Di ragazzi, scrive una rivista studentesca, all'epoca la rivista studentesca di un liceo come il Parini erano tipo Panorama, sì. Come Espresso, cioè, fate con grande cura. Se leggete gli articoli sono impressionanti, sembrano scritti da Moravia. E questi ragazzi che hanno 16, 17 anni, 18 anni, che cosa fanno? Che fanno un'indagine sulla sessualità giovanile. Viene fuori un disastro. Ma a livello nazionale poi. Sì, all'occhio di chi è appunto della vecchia morale. Loro poverini si sono solo fatti delle domande da adolescenti di liceo classico milanese. Molto sobri. Infatti. Vengono accusati di tutto e di più. C'è un processo in tribunale, perché vengono accusati di oscenità. Processo vero, non interno alla scuola. Sì, sì, gli avvocati, con un collegio di avvocati, tra l'altro grandissimi nomi, difesi, ovviamente, tutta la laicità si schiera, e dietro chiaramente ovviamente c'è quella morale della magistratura, che era molto intrecciata, penso al cinema ovviamente, certo. Ma anche alle rappresentazioni teatrali, penso a Carmelo Bene o a Volonté, che ebbero grossi problemi per vari motivi, diciamo, quello che mettevano in scena, con censure, chiusure dei teatri. È un periodo che uno non ricorda bene, ma veramente di scontro proprio molto molto molto forte, con anche scelte appunto dure da chi sulla scena manifestava il bisogno di una liberazione dalla censura. Quindi qui scatta una censura proprio pesante su degli adolescenti che, come dire, iniziano a pensare con la loro testa, a farsi domande e a darsi anche delle risposte, perché se lo potevano permettere come studenti di un liceo classico d'élite, peraltro. Sì, forse il più d'élite d'Italia in quel momento. In quel momento sì. E quindi c'è un processo seguito da 40 testate di tutto il mondo, quindi una cosa incredibile a livello nazionale, tutti assolti ovviamente. E quindi questo siamo nel 66. In tempi più brevi di quanto sarebbe successo, sì, in passato, sì, perché all'epoca erano ancora. Sì, c'era molto. Un po' perché era un'altra epoca, c'era forse meno ingolfata la magistratura, certo. Credo proprio di sì. E un po' perché comunque era tutto di riflettori e bisognava anche sbrigarsi, perché insomma. Non si poteva andare avanti, no, poi, troppo a lungo. Da un certo punto di vista, le leggi erano in parte peggiori, però questi non erano criminali, quindi diciamo. Per cui dopo ci sono degli inasprimenti a metà degli anni 70, parlo della detenzione preventiva. Mm-hmm. Ma insomma era una situazione inquietante. Questi poveri ragazzi sono, diciamo, si ritrovano questo macigno che però li tira fuori tutti dalla vicenda, perché appunto non c'è motivo, il fatto non sussiste. Esattamente, il fatto non sussiste, era un articolo di giornale, quindi. E da lì, come dire, si rompe, cosa che già era avvenuta, diciamo, lo ricordo sempre, lo spartiacque vero culturale Pasolini, perché Pasolini lo fa da intellettuale consapevole sistematicamente il suo lavoro di discussione del problema della libertà di espressione in termini come dire, estetici. Lui faceva poesia, letteratura, cinema, senza mai appunto voler toccare chissà quali argomenti, perché lui nel 60 viene anche lui attaccato duramente per Accattone, ma se lo vedete non c'è nulla, semplicemente però è la storia di un pappone, come si dice a Roma, e quindi questo già era problematico. Molto problematico. E quindi questo è il clima, diciamo è il 66. Poi il 66, sempre ricordiamolo perché è un anno abbastanza importante, è anche l'anno di Paolo Rossi. Paolo Rossi è uno studente cattolico, peraltro socialista, però quindi probabilmente una blasfemia. Che fa attività politica a 20 anni, mi pare, veramente è studente di architettura. Sì, era il primo o secondo anno di architettura, e c'erano le elezioni per il rinnovo degli organi interni di rappresentanza all'università qui alla Sapienza, e lui era a fare volantinaggio sulla scaliera di lettere. C'è uno scontro con il gruppo di quelli che erano dall'altra parte, candidati anche loro a fare la campagna elettorale per la rappresentanza, che era la destra ovviamente, quindi neofascisti sostanzialmente, mascherati. All'epoca si usava il paravento goliardico, sì, sì, sì. Per così, dove potevi mettere dentro un po' tutto, esatto, sì, con questa cosa un po', e gli danno un pugno forte nello stomaco. Non si è mai capito chiarissimamente, almeno insomma sì, nel senso, però la dinamica nei dettagli, ma insomma cade dal, tutti quelli di Roma che hanno dalla balaustra sopra, com'è la scalinata, e cade dal lato a destra, perché guardando la scalinata di sotto ci sono 4-5 metri, e muore in ospedale, mi pare, il giorno dopo. E c'è grande indignazione, ma molto diversa da quella che verrà, perché diciamo si crea subito un grosso sit-in che dura tante ore sul luogo dove lui è caduto, e che viene arrivata, diciamo, la notizia che è morto, e con le chitarre si canta quello che erano appunto i canti pacifisti dell'epoca, in particolare We Shall Overcome, insomma John Baez, che all'epoca erano in diretta, gli ultimi arrivati, c'era il Vietnam che stava proprio stava esplodendo, la contestazione in tutta Europa, c'erano state delle grosse in contemporanea manifestazioni proprio contro il Vietnam, di giovani contro il Vietnam in Amsterdam e Londra, che insomma. Ed è interessante perché non sono toccati quei giovani, non è che vengono richiamati in Vietnam. Però si sentono, sì, però, esatto, come le brigate internazionali che si mobilitarono, tantissimi giovani ventenni, anche la Nuova Zelanda arrivarono, che non c'era Franco, no. A Auckland, che esatto, era veramente un altro pianeta, e pensate il viaggio nel 36, 37 quando partono questi ragazzi, che era già finita, esatto, la guerra praticamente, rischiavano di arrivare, che era finita con le navi dell'epoca, i vapori, perché poi il transatlantico insomma era pure turistico, sì, sì, salivano su e si imbarcavano da varie parti del mondo, e ovviamente da tutta Europa. Nel 66 quindi c'è questa manifestazione della solidarietà di giovani che si preoccupano per altri popoli lontanissimi, i giovani americani che comunque stanno dall'altra parte dell'oceano, e soprattutto i giovani e tutti, e non solo, dell'Asia, coinvolta ovviamente in una guerra, quindi il destino del popolo vietnamita. Oggi fa orrore, diciamo, pensare a come siamo ridotti. Parlo proprio della massa dei giovani, perché qualcuno c'è, ma non, nessuno si turba rispetto a uno scenario dove no, le cose non sono tanto, come dire, diverse dal... Sì, si potrebbero trovare dei motivi... Beh, sono delle situazioni gravissime, anche se chiaramente è la diversità anche del modo di fare la guerra, che forse, non so se si può dire, perché non credo, è sempre orribile, insomma, ma oggi per alcuni versi c'è qualcosa ancora di più orribile, no? Penso ai droni, nel senso, uno sì, se ne sta a 20.000 chilometri con un joystick e magari ammazza quello, almeno quelli con l'elicottero ci dovevano proprio vedere e sparargli, non dico guardargli, però c'era una relazione, però, insomma, li vedevano, maledetto muso giallo, no? E adesso ancora forse è molto più inquietante, perché questa distanza disumanizza sempre di più. Va bene, quindi il 66 è importante per questo motivo, e poi anche tante cose succedono, me ne era venuta un'altra importantissima, questa l'ho detta, oddio, no è importantissima. Vabbè, porca no, miseria, mi sono distratto, vabbè, mannaggia. E questi sono i prodromi ovviamente del 68. Ah sì, certo, nel 66 c'è, e questo ci riguarda, ecco, direttamente, proprio per concludere, il backstage. Viene abolito, diciamo, l'indice dei libri proibiti. Viene abolito l'indice dei libri proibiti da Montini esattamente l'anno dopo, il che, come dire, mai tardi, come si dice, dopo 450 anni, ma anche la prima messa beat a febbraio, qui alla Vallicella, che sarebbe... Aprile, mi dicono. Aprile, la prima messa beat ad aprile, ecco, in questo mese. Al 26, qua fra poco possiamo fare la... Esatto, i 53 anni. La prima messa beat di Giomini, è un compositore, non è suonata in un luogo consacrato, perché è la biblioteca del Borromini alla Vallicella, che lo conoscete, ci siete passati davanti miliardi di volte, poco dopo Piazza Navona e il Pantheon è sul corso. Ma questa musica, che potete ascoltare su YouTube, perché c'è il disco che è uscito nel 66, poi entrerà dirompente dentro le chiese, quindi anche durante la liturgia. Proprio nel 68-69 c'è una diffusione nelle chiese, in particolare nelle parrocchie, quelle, diciamo, molto vicine a ciò che venne definito appunto cattolicesimo del dissenso, che poi è ciò a cui si riferisce Ratzinger quando parla di questo cedimento strutturale della morale cattolica dovuto appunto al 68. Cioè, che appunto che vuol dire? Che nelle forme pratiche in quegli anni lo stesso Ratzinger viene a sapere, lui non è in Italia ovviamente in quel periodo, di cose del genere ne avvengono ovviamente in tutta Europa. A noi interessa fare così riferimento all'epoca nostra, al nostro territorio, e quindi ricordiamo gli episodi di Don Milani, che mandò una lettera celebre, non quella alla professoressa, che anche quella è importante, ma fortunatamente su quella non c'è un processo, diciamo. C'è un processo interno. C'è un'altra lettera, quella dei cappellani militari, sempre legata ovviamente al discorso del Vietnam, sempre legata al fatto che il cattolicesimo del dissenso diceva: voi benedite le armi, ma cosa state facendo? Poi ci fu appunto sempre nel 66, ecco un altro, mi ricordo, un'altra lettera famosissima dei giovani cattolici italiani, a Montini proprio, che chiedeva di prendere posizione. 67 questa lettera, scusate, l'anno dopo. Nel 67 c'è questa lettera celeberrima che chiede ovviamente a Monti di schierarsi, per dire: non è possibile ovviamente che il cardinale Spellman, mi sembra, dica quello che dice, cioè che questi soldati vanno a difendere la civiltà puro col napalm. È difficile, ecco, ci vuole difficile. Molta buona volontà, ecco, quindi questo è il, diciamo, il clima. Quindi dicevo, nel 66 c'è anche questa messa, e dilaga il cattolicesimo del dissenso, e quindi le parrocchie che accolgono la riforma, quindi la messa, come abbiamo detto, non più in latino, e anche con il prete rivolto alla platea, e questo è un modo di resto, perché ci si guarda tutti, lui parla, e un rapporto, e in quel momento questa cosa viene vissuta molto intensamente dalla comunità cattolica. Era una novità, piene zeppe le chiese, perché era veramente una novità, e soprattutto, ripeto, si cantava. E se andate qualcosa su YouTube si vede, ci sono piccoli frammenti dell'Istituto Luce, delle settimane Incom dell'Ego, perché se ne parlò talmente tanto che tutta l'area retriva reazionaria documentava dicendo che orrore. Guardate che succede. Che succede? Perché? Perché c'erano questi gruppettini a destra dell'altare, a volte con l'organo Hammond, le chitarre, la batteria in diretta che suonavano. E sembrava di sentire quei brani un po'. Vagamente Beach Boys primissima maniera o Beatles primissima maniera, con contenuti religiosi, però signore Maria, così. Anche queste ne trovate d'epoca, perché poi hanno creato tanti altri motivi, ma insomma questo Giomini è quello che per primo ebbe, vendette migliaia di copie ovviamente questo album con tutta la messa a beat. Messa a beat significa semplicemente quello che trovavate nel fogliettino quando si andava in chiesa e c'erano i canti liturgici, c'è il messale, esatto, con i canti classici. Ecco, quella stessa struttura, cioè gli interventi durante la messa in cui si canta, trasformati in una forma beat, quindi c'è l'Osanna, c'è il Padre Nostro, cantati, infatti si cantava. Si formano i gruppi anche che cristiano-cattolici, ovviamente, che sono anche qui, anche se c'era già qualcosa precedentemente in una forma un po' meno beat, ma di transizione, sì, si chiama, ci stava arrivando. Sì, Gen Rosso e Gen Verde, mi sembra. Che anche sono gruppi che credo che esistano ancora, non so se hanno 70 anni, non so, si sono rinnovati, non ho indagato, ma questo è appunto il clima. Mentre avviene tutto questo, chiaramente le altre cose del 68 le conosciamo bene a livello, diciamo, nazionale, perché sia in Germania ovviamente che in Italia che in Francia, direi